c'est l'essence de la vie. Sans l'amour, la vie ne vaut rien. Vita di Kando, l'enfant mystère, Michel Bandou, Ferrego, la mystère, le Valova, Bibiga Pinawani, Vander Vita, Tony le Prince, Papi Mouya Mado Spaghetti, Hamilton Vita, Solange Kapinga. Litana foule kaka, maka jamais na espace. Televite, Vita di Kando. Soki litange lungwe likolo na mapata. Destination nango toujours na mabele. Destination nanga ya amour et c'est pas na yo. Mon ami kabanzoto mopima nanga ye pa na yo. Michel Panzou et le Moussamba. Yona pura via papa bébé. Junior Panzou, Jean-Claude Songola, Flo Boys Shokap. Ata batia kangati na molongo panzete. Na chante kasinga na sanzete amangae. Na kobo tela yo bakuma ya elengi. Yo benze tamula ngai vitae. Na kope sata mo pepe ya malili. Popo pamakaso kimo ye ngali makasi. Zola Kambila, Michel Panzou. Yo na pura vya papa. Hamilton Vita, Vander Vita, Milene Vita, Mambo let's go. Hello, quello che ho na mona e so che lingo sima. Già mo coba chi s'amfula na pomo in aio. Pape sa casse uio sanango. Gana pesi se motema na na Michel. Nengo lo bia lo qua na motema. Nego shaumba. Quando non che l'ingaliwa vita è. Oia l'indiva, chiama presi ma lele chi vita di Kando. E se mamma e vice si appesa chi visa, chi ha parati in acqua. Michel Panzou, qua c'è bel amour, sa tiè. Salati kumbona yo pipo senga na kubusa latiku. Gedi Benga 5 ans de silence. Pamela Sensi, Francis Mundabi, Carmen Mani, Ngaya Yote, Nasina Telemi Drago Ego Pepa. Itzamala manga kotela ya mofunde, itzamala manga kotela. Héritier Sangol, chef de l'eau.